Milan e Manera, siete veramente uno spettacolo. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui, signori, 9 e 7 minuti, cioè siamo qui, io sono qui, Filippa Oreggi in regia è qui, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi in redazione sono qui e il nostro buon Leonardo Manera ieri aveva annunciato di essere oggi a casa in vestaglia e pigiamotto, al momento in effetti... Oh, ma quando lavori? È una domanda non a me, spero, caro Pippo DJ. In regia, perché io sono qua negli studi di Radio 24 in via Monterosa 91 a Milano e il nostro Leonardo Lentopede Manera forse si aggira in questo momento tra cucina, bagno, svogliatamente, sbadatamente, camera da letto, strascinando. Siano tutte delle grandi palle, neanche trascinando, strascicando i piedi, strascicando i piedi e le pantofole. Chi lo sa, lo scopriremo più avanti lentopedamente. 9-8 minuti, guardate che oggi abbiamo una puntata ricchissima perché parleremo della vicenda a proposito di vestaglia o pigiama del dipendente di Sanremo in mutande, parleremo della vicenda dell'imprenditrice che ha fatto arrestare per una mazzetta il prefetto di Cosenza, parleremo della canzone di Sanremo, ma sì, parleremo del fumo, parleremo di ricchezza, di Davos, parleremo del traffico, il traffico a Roma, una puntata ricchissima, fino alle 11 con voi, tanti temi per tenervi compagnia, si spera. La voce è sempre questa, eh? Oh, ragazzi, è San Rebic, è San Siro, San Rebic. Adesso non vi preoccupate, tanto non succederà più un gol del Milan al 94esimo. Quindi tornerà la voce al pieno e via, Pippo, vai, vai. Enthusiasm, vai. Enthusiasm about the future. Oh, a proposito di San Siro, il fumo. Allora, Sala è partito con questa crociata a Milano. È una crociata un po', giustamente bisogna fare le cose così duramente. Io dico bravo, bravo, avanti così, avanti così. Ieri, lo vogliamo sentire Sala? Sì, dai, così riposo un attimo la voce, vai. Se sono in fila, se sono la fermata, se sono allo stadio, non ho la libertà di spostarmi. Quindi da questo punto di vista è una restituzione di diritti a coloro a cui il fumo come minimo dà fastidio, probabilmente fa anche male e non hanno possibilità di evitarlo. Oh, bravo, bravo Sala. Cioè, vedi, leggevo ieri Giuliano Ferrara sul Foglio, arrabbiatissimo, stavo dicendo arrabbiatissimo per quella che viene definita da lui, da Ferrara, viene definito un atto di sopraffazione ideologica odiosa, cioè il divieto di fumare, odiosa come tutte le lezioni di moralina andante, una lezione di bonton che scende dalle istituzioni globali del benpensantismo verso il povero cittadino infantilito, redarguito, allineato, disciplinato. E così scrive Ferrara, devi conformarti all'idea che questa è la nuova fede senza chiesa. E così non devi mangiare le cose che non si devono mangiare secondo i più, non devi bere bibite sconsigliate dagli scienziati nutrizionisti, non devi permetterti di essere come sei, di giocare con le tue imperfezioni, di esercitarti nei tuoi gusti, anche senza fare del male ad alcuno. E no! È qui Ferrara! E come anche senza fare del male ad alcuno? E no! L'hai sentito il sindaco di Milano Sala? Molti non sanno, scrive Giuliano Ferrara, che tipo di libertà ganza e irrinunciabile e vagabonda è la tirata all'aria aperta, la sigaretta en plein air, aspettando il tram, il parco o al parco, seduti su una panchina. E no, la libertà, viva la libertà Ferrara, viva la tua libertà Ferrara, viva la mia, che non ti voglio a fianco allo stadio di San Siro che mi fumi in faccia. Non lo voglio, non lo voglio. Posso alzare il ditino Ferrara e dire non voglio che mi fumi la pipa, il sigaro, la sigaretta elettronica, la sigaretta. Posso alzare il ditino, esisto anch'io Ferrara, lo so che non mi vedi, sono piccolino, esisto anch'io che per anni sono stato schiacciato dalla tua libertà. che vorrei dire di non fumarmi in faccia, magari non fumare in faccia anche a mio figlio, te lo vorrei dire, te lo vorrei chiedere, posso almeno chiedertelo, posso, alle 9:12 minuti posso, quindi bravo sindaco di Milano Beppe Sala, avanti così, avanti Savoia, sto dicendo avanti Beppe Sala, avanti senza tentennamenti. Allora signori, il vigile di Sanremo, iniziamo da lui, Alberto Muraglia si chiama, è il vigile immortalato anni fa mentre timbrava il cartellino per entrare in servizio in mutande, ricorderete tutti quella scena, non ho dato i numeri, cioè li ho dati ma in altro senso, 800 24 00 24, se volete intervenire sul fumo, su altre tematiche. Per i vostri messaggi 349-238-6666. Sul fumo abbiamo detto questo. I dipendenti pubblici e le mutande del vigile di Sanremo. Allora, intanto voglio fare una polemica con qualche collega. Perché molto spesso leggo delle interviste sui giornali. Lo dico chiaramente, lo segnalo anche all'ordine dei giornalisti, che certo ci propinano degli importanti corsi di aggiornamento per i crediti professionali, e poi magari si dovrebbero chiedere qualcuno all'ordine dei giornalisti se alcune delle interviste che appaiono sui giornali non siano finte, inventate di sana pianta, oppure magari non proprio inventate, due parole buttate lì che diventano delle interviste domande risposta di 50 righe, due parole con l'avvocato di che diventano una finta intervista al protagonista mentre invece è l'avvocato. Perché lo dico? Perché oggi leggo due interviste ad Alberto Muraglia e mi sono anche un po' arrabbiato con lui. È da mesi che ci sentiamo con Muraglia via SMS, via telefonata, dire allora parla, no non è il momento. Ieri è arrivata la soluzione, gli ho detto Muraglia è il momento di parlare. No, mi ha scritto a tarda sera, gli avvocati mi hanno sconsigliato di parlare. Oggi leggo sulla stampa e la Repubblica, ci sono due interviste a Muraglia. Allora gli ho scritto questa mattina, scusi Muraglia, ma vedo intervistato dappertutto. Mi ha risposto così, io tendo a credergli, sono invenzioni di sana pianta, non ho parlato con nessuno, oppure frasi vecchie, riciclate. Ecco. Segnalo questa cosa all'ordine dei giornalisti, cari colleghi, se dico tre se, perché poi sono anche permalosi e si arrabbiano, se queste interviste non sono state fatte, ma sono state, come dire, ricicciate in qualche modo, non si fa, è un'invenzione ed è un qualcosa che non va bene deontologicamente. Ok, chiusa la polemica personale, voglio salutare invece il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri. Buongiorno sindaco e grazie di essere. Buongiorno a lei, radioascoltatori, buongiorno. Allora, che dobbiamo fare? Lei ha detto riscrivere un po' e rileggere tutta questa vicenda, evidentemente, perché è stato assolto perché il fatto non sussiste in primo grado, sì. Il vigile urbano. Tanto 10. Non uno, sì. 10 persone che sì. Erano scelte il rito abbreviato, sono state assolte col fatto non sussiste dopo 5 anni di un'attenzione mediatica sproporzionata che è stata data ovviamente su tutto questo. E ovviamente io faccio una premessa, il sindaco sicuramente sa tante cose, ma io devo dirvi che su questo aspetto a livello giuridico e vuol dire a livello al di là della conoscenza, ma è sempre stato il segretario del mio ufficio ovviamente che portano avanti la strategia, no? Il sindaco giustamente ha una responsabilità perché è un po' visto come un po' il capo dell'amministrazione, perché lei era sindaco anche allora quando successe, da poco. È il mio secondo mandato, dunque ero appena si era conclusa l'indagine, io sono subentrato, io dopo quattro mesi si chiude l'indagine e nell'ottobre 2015, praticamente un anno e tre mesi dopo, mi sono visto arrivare 40 macchine della Guardia di Finanza in comune. Ed è stato una cosa, cioè, vedevo persone non dico amministrate ma accompagnate dalla Guardia di Finanza, portate via, ha coinvolto 200 persone, è stata una pagina difficilissima. Sì, c'è da dire che il GIP ha mandato alcuni a processo, quindi non è certo che proprio è tutto campato in aria, no, evidentemente. Mancherebbe, no, però è stata vuol dire, a livello vuol dire, come comune, come amministrazione, è stata molto complessa la situazione. Sì. Oggi leggiamo, cioè vengo a conoscenza anch'io ieri, è stato un sussiste, e vuol dire, guardando dall'aspetto umano, valuto positivamente il pronunciamento odierno. Adesso aspettiamo di capire gli sviluppi, sì, cosa farà la procura. Sì, se si è capito, la questione è che lui, è vero, ha timbrato in slip, ma siccome viveva lì nel luogo dove c'era la timbratrice, sì, e sì, il tempo di vestizione della divisa e tempo di lavoro, esatto, lui è andato, si è svegliato, ha timbrato, poi si è messo la divisa, sì, con calma. Quindi questo ma non è un... Certo, esattamente. Poi sicuramente, poi come dicevano anche, perché io non ho letto le carte e sicuramente non proprio lo faranno gli uffici, poi vediamo un attimino su come agire su tutto questo, però dall'altra parte c'erano anche diverse, mancavano anche diverse prove, erano supposizioni che erano state scritte. Dunque, io ripeto, noi valutiamo positivamente questo, adesso vediamo, aspetta gli uffici per l'indicazione, ma io credo che vada rivista questa cosa con equilibrio, con attenzione, anche perché è una situazione, rivista con attenzione, cioè potrebbe esserci anche il reintegro a questo punto. Ma sai che c'è una causa che pende, io penso che questo io non lo escludo, perché se voglio aspetto che sia nel mio ufficio ovviamente la mia indicazione, come in allora anche oggi seguirò, sì, gli stessi passi, ma allo stesso tempo da parte mia personalmente io lo vorrei anche valutare, no? Valutare il reintegro a questo punto, sì, se non è colpevole, il fatto non sussiste, certo, in primo grado. La sentenza è forte, è molto forte, perché sì, non è che hanno detto per mancanza di prove, perché il fatto non sussiste, questo è molto chiaro. Che bisogna fare quindi in conclusione? Cioè, voglio dire, lei dice, quando succede una vicenda del genere si muovono 40 macchine, 200 finanzieri, noi giornalisti non dovremmo, come dire, sospendere il giudizio? Sì, ha ragione. Ma sai cos'è? Io non ho mai visto un'attenzione mediatica così forte, cioè, è successo anche in altre città, in altri paesi, cioè qua saremo, da ottobre fino a dopo il festival, si arriva fino a marzo, aprile, c'è stato 6 mesi di attenzione mediatica a livello nazionale, a livello internazionale, una cosa spropositata. Devo fare una battuta, perché Sanremo è Sanremo. E perché Sanremo, sì, nel bene e nel male, Però al di là di questo io credo che, non lo so, a volte tutti noi, ripeto, ognuno ovviamente con le proprie responsabilità, perché su questo io non dico che sono stato spettatore, perché l'ho vissuto più direttamente, però ovviamente non li ho fatti io i decreti disciplinari, però al di là di questo vedo che siamo troppo coinvolti di pancia. Sì, questo è vero, per correttezza bisogna dire che ci sono stati anche 16 rinvii a giudizio, 16 patteggiamenti, certo, quindi evidentemente persone che hanno patteggiato una pena, certo, per cui qualcosa di qualche grumo da sgrumare c'era, ecco, mettiamola così. Esattamente, c'è sempre un po' di, bisogna essere sempre equilibrati, capire caso per caso e valutare. Col senno del poi è facile dirlo, lo capisco, però invece dobbiamo mettere un pochino più attenti. Sì, è chiaro. Ripeto, che io sono un po', immaginate, anche per noi, io concordo con lei che poi ci sono casi e casi, non facciamo adesso, non passiamo adesso da, no. Del lato opposto, no, di tutta questa situazione, perché da una parte e dall'altra parte è stata troppo notata e contro, adesso di un passato due volte, perché sicuramente delle cose sono successe e è stato giusto intervenire, però è stato fatto, secondo me, in realtà un'onda che poi alla fine un'onda stata, mediatica, sindaco, no, è chiaro, nel ringraziarla e salutarla non le posso fare non fare una domanda su Sanremo, cioè lei ci sarà, lei non fa come la Bellucci, non fa... No, potrebbe fare un gesto clamoroso, lei, no. non vado a Sanremo, quest'anno, sarebbe clamoroso. Quest'anno Sanremo stiamo preparando un festival veramente importante, ovviamente siamo alla RAI per il 70esimo, perché sarà un festival che si vivrà anche soprattutto fuori dal Teatro Ari. Ma e tutte le polemiche? E tutte le polemiche? Le polemiche, devo dirvi che le polemiche ogni anno Sanremo, sì, certo. Quest'anno a volte secondo me ci facciamo anche un po' male da soli, cioè siamo anche noi un po' attenti, parlo noi, non tanto, ci sono delle polemiche sicuramente che sono, io guardi, proprio oggi parlavo anche un po' con la RAI per questo rapper, dico. Ma signori, ma cioè, facciamoci troviamo una soluzione, perché secondo me qual è la soluzione? O c'è o non c'è, o c'è o non c'è. Secondo lei va bene sto rapper sul palco? Secondo me no, va tolto. Ma io questo lo parlavo stamattina, però bisogna, io sono sicuro che la Rai troverà una soluzione, per come ha sempre fatto, e capisco anche la situazione, che c'è un contratto in essere, che devono vedere delle cose. Poi, mi auspico che ci siano altre occasioni per ascoltare questo rapper, ma non al Festival di Sanremo. Va bene, sindaco, io la ringrazio, ripeto, Alberto Biancheri è il sindaco di Sanremo. Questa vicenda del dipendente che ha timbrato in mutande, ripeto, è stato assolto perché il fatto non sussiste lui, ma ricordiamo il GIP contestualmente ha disposto anche 16 rinvii a giudizio per altre persone, in tutto erano 42 i dipendenti comunali che erano indagati e altri 16 patteggiamenti, 10 invece assolti, quindi voglio dire, non è che proprio non ci fosse nulla, e comunque vedremo. Certo, un'attenzione ci vuole quando si raccontano queste vicende, come si racconta la vicenda che ci porta subito alla successiva ospite, che io ringrazio molto di essere qui, perché so che non ha passato un Natale facile, perché ha fatto una scelta importante, una scelta di legalità, questo va detto. Si tratta di Cinzia Falcone, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno. Grazie mille per avermi invitata, grazie. Allora, Cinzia Falcone è un'imprenditrice di Cosenza che ha una scuola e che a un certo punto ha incontrato il prefetto, la prefetta, se si vuol dire, di Cosenza, prefetta di allora, insomma prefetta, non so se decaduta a questo punto, Paola Galeone. E quando l'ha incontrata in ufficio, mentre lei diceva, mi rivolgevo a lei con la parola eccellenza, come si rivolge al prefetto, il prefetto invece che cosa le ha chiesto, Cinzia Falcone? Il prefetto mi ha parlato di un fondo di rappresentanza, come ormai è noto da tutti i giornali, è stato scritto, che pare sia venga concesso annualmente a queste figure istituzionali per delle spese, ovviamente sempre di caratura istituzionale, non personale, nel quale residuava una certa cifra. E praticamente la richiesta era di emissione di una fattura. Praticamente poi un ritorno per me di circa 500 euro e un ritorno invece in contanti di circa 700 euro per lei. Cioè di fare una fattura di 1200 e rotti euro per poi spartirsi una parte. Si chiama mazzetta in gergo, no? Voglio dire. Così l'hanno definita tanti giornali, sì. Lei, quando dico fa una scelta di legalità, era sotto Natale, tra l'altro era proprio il 23 di dicembre, decide di andare a denunciare in questura. Non so se vi rendete conto, cari ascoltatori, cioè vuol dire andare rivolgersi allo Stato per dire che un altro pezzo dello Stato, un'istituzione, fa questo tipo di richiesta. Sicuramente illegittima. Guardi, non è stata una scelta, perché io non avrei potuto fare una cosa diversa. Da tanti anni mi impegno nel sociale, soprattutto relativamente alla violenza sulle donne, ai minori, e comunque veramente la nostra, lei lo sa, e io sono calabrese, davvero ogni goccia del mio sangue appartiene alla Calabria, però la mia è una terra, per quanto meravigliosa, anche molto molto complicata e difficile. Ed io avevo ripromesso a me stessa, fin da quando ho iniziato a lavorare, che non avrei mai ceduto a nessun tipo di compromesso del tipo dot des, cioè io ti do questo e tu in cambio mi dai altro. Sinceramente non avrei pensato che questa richiesta potesse mai pervenire proprio da una donna dell'istituzione, dallo Stato. Senta, scusi, questo le fa onore, perché lei dice non avrei potuto mai fare altro tipo di scelta. In realtà lo sa benissimo che ci sono centinaia e centinaia, se non migliaia e di più, di persone che fanno proprio la scelta di dire ok, procediamo con questo tipo di richiesta, no? Ma... Io, come le dicevo, sono impegnata nel sociale e ho incontrato negegli ultimi 3-4 anni circa 100.000 studenti, ovviamente non da sola, ma con un gruppo di persone del quale fa parte anche lo Stato buono. E io ho sempre detto ai ragazzi: ragazzi, noi viviamo in una terra in cui da subito, immediatamente, dobbiamo decidere da che parte stare e poi proseguire su quella strada. E quella volta, come ho detto anche già in passato, io ho capito che quelle parole io le dovevo trasformare nella realtà. E devo dirle che forse anche io ho sempre sottovalutato quello che dicevo, perché poi in realtà è veramente difficile. Consideri che io adesso ho paura anche di dover andare via da qui, perché temo delle ritorsioni, perché comunque si cerca anche di decentrare l'attenzione sul fatto che per me è gravissimo, cioè mi crede, è un fatto enorme, perché insomma la prefettura è il primo presidio di legalità. E quindi ecco, però le ripeto ancora una volta, nonostante adesso ho visto il dopo e sto vedendo il dopo, comunque tornando indietro rifarei la stessa cosa. Ecco, il dopo riesce, qualcosa ci ha già detto, ma riesce a descrivercelo? Perché effettivamente è abbastanza incredibile. Lei adesso sui giornali è definita come la donna, l'imprenditrice, Cancola, che ha fatto arrestare l'ex prefetta con, come dire, questa denuncia, la videocamera messa per riprendere l'atto della consegna di questa mazzetta e l'arresto in flagranza di reato, evidentemente. E poi che succede dai giorni dopo, finita, passata la solidarietà? Guardi, la solidarietà fortunatamente non è passata. Io ho ricevuto davvero migliaia e ricevo migliaia di telefonate, testimonianze di solidarietà. Davvero non me l'aspettavo tutto questo, ma da ogni parte d'Italia, anche fuori dai confini italiani, addirittura dal Canada, calabresi che sono emigrati e sono andati a vivere lì. Però è anche vero che purtroppo in maniera residuale, come ha detto lei poc'anzi, ho letto le frasi del tipo Scaltra ha fatto arrestare il prefetto, come se ci fosse, come se fosse colpa sua, come se fosse, ecco, colpa sua, non qualcosa che dipende da me. Invece non è mai nulla di peso da me. Io mi rendo conto che è difficile da credere, perché effettivamente è davvero fuori da ogni, sembra quasi che si racconta un fatto inverosimile, però veramente purtroppo è un sistema che ormai è talmente diventato normalità che quasi quasi fa scalpore il fatto di denunciarlo, di dire basta, che non quello di continuare a perpetrarlo nella normalità e diciamo come se fosse la cosa più naturale del mondo. Sai, pochissime devo dire, ma sa, ci sono state delle persone che mi hanno detto: ma guarda, noi lo sappiamo come sei fatta tu, ma chi te l'ha fatta fare? Dici, d'altra parte, dici, guarda, ormai le cose vanno così. Ecco, a questa rassegnazione io vorrei dire che noi calabresi ci dobbiamo ribellare, veramente, ci dobbiamo ribellare. Credo che sia il gesto migliore, cioè il gesto, la situazione peggiore è questa, appunto, della rassegnazione, cioè l'idea che non si possa fare nulla, che è meglio adeguarsi a una certa tipologia di richieste. Esatto. perché conviene dopo tutto, no? Esatto, perché a me sarebbe convenuto, diciamoci la verità, a me sarebbe anche convenuto, insomma, avere... coltivare delle amicizie potenti che, ripeto, possono essere sempre utili poi nella vita. Però guardi, io con quale coraggio sarei aver più potuto metter piede in una scuola e trovarmi davanti dei ragazzi che magari credono e pendono dalle tue labbra perché sei per loro, rappresenti qualcosa, non sarebbe stato più possibile. Questo assolutamente sì. In conclusione c'è da dire, Cinzia Falcone, che molti sottolineano anche quanto sia stata poco cospicua questa mazzetta, cioè abbastanza incredibile. Esatto. Insomma, che per 700 euro un prefetto, io non so quanto guadagni, però credo che stia bene dal punto di vista dello stipendio, insomma, un tempo, quando si parlava di mazzette, tempi di Mani Pulite, viaggiavano centinaia di milioni di lire. Adesso leggere, certo, di 700 euro fa anche un po' specie, Però forse ci restituisce anche la misura di quello che dicevo prima, cioè di quanto sia diventato forse anche normale assumere determinati tipi di atteggiamenti, non più per delle cifre in cui ti devi fermare a riflettere, no, perché rischi comunque ma quasi ecco come se fosse invece la normalità, anche per cifre che effettivamente, come dice lei, alla fine per un prefetto non credo che insomma che cambi la vita. siano importanti. Questo sì. Io la ringrazio, grazie Cinzia Falcone, davvero. Grazie. Non solo per essere stata qui, che è la cosa minore, insomma, ma per aver scelto concretamente di stare dalla parte della legalità e di voler lanciare questo messaggio che non si può, come dire, abituarsi alla rassegnazione di chi dice ma tanto è tutto così e bisogna invece reagire, grazie per questa storia. Come dire, cari ascoltatori, io Leonardo Manera, aspetta che mi giro anche dall'altra parte del vetro, in giro in redazione, non lo vedo. Allora sarà come il vigile di Sanremo, in mutande a casa, immagino, lo scopriremo forse dopo la pubblicità, a meno che non appaia di colpo, altrimenti questo è, signori, adeguiamoci. Uno, nessuno, 100 Milan. Cioè, Ferrara chiama libertà una cosa che è una dipendenza. Secondo me, entrare in uno stadio durante una partita e dire adesso multo tutti quelli che qua fumano è un'impresa titanica. Faceva prima dire risolverò il problema della fame nel mondo. Sono d'accordo anch'io sul fumo, e sono un fumatore. Faccio lo steward allo stadio di San Siro. Ma chi glielo va a dire ai tifosi, specialmente in curva, non fumate perché è vietato, perché l'ha detto Sala. Rischio quantomeno che mi prendano e mi buttano giù. Questo è vero, purtroppo, caro steward, questo purtroppo è vero. Vabbè, strascicando i piedi col suo giubbetto in pelle, un po' semipelle. Ma no, non è in pelle, è in tessuto con degli inserti in finta pelle. Ah, finta pelle. Oh, sì. È arrivato Leonardo Manera. Ieri avevi detto che saresti stato come il vigile di Sanremo, in mutande a casa. Sì, ma poi siccome ieri sera sono andato a letto presto, stamattina mi sono naturalmente alzato presto. Come e quindi vecchi, ho detto, vabbè, come cioè, andiamo lì contro voglia. Caro Leonardo, come però stai? Vedi come sono i casi della vita. Pur essendomi alzato presto, sono arrivato poi un po' più tardi del solito perché ho sbagliato treno. Mi hanno ingannato in realtà quelli della metropolitana. Ma chi ti ha ingannato? Sì, prego, venga. No, mi hanno ingannato, adesso spiego perché. Perché chi non è qui di Milano, la metropolitana ha varie direzioni. Sì. Quando sono salito io l'annuncio ha detto treno per Ro Fiera, quello giusto. Ma poi una volta dentro ho scoperto che invece era il treno per Bisceglie. Ah, ti hanno fatto proprio l'ingannone? Mi hanno fatto la trappola. Io me ne sono accorto quando ero già a Bisceglie. E dopo sono dovuto fare tutta la trafila, tornare indietro. Cioè il capolinea, no, a Pagano lì, no, Wagner, a fanculo, dov'ero? Insomma, ecco, tutte ste fermate, basta. Mamma mia, numeriamoli: 1, 2, 3, 4. Sono dovuto tornare poi a Pagano e poi da Pagano prendere. Mi spieghiamo perché non è di Milano. A un certo punto i treni da linea rossa si biforcano. E quindi se sbagli ramo. Mi hanno fatto questo inganno. Sbagliata. Quelli che fanno l'annuncio, secondo me, fanno apposta. Querelali, ogni tanto. Querelali. Sì, fare una querela. Di questi tempi vanno di moda. Allora, Leonardo, dobbiamo parlare qualche minuto di questa vicenda di Sanremo. Sì, anch'io, il pezzo l'ho scritto, visto che c'era questa richiesta. Avevamo il sindaco di Sanremo, Alessandra Scaglioni responsabile dei programmi, ma lei è, voglio dire, è ligure, lo fa per quello, comunque dice dovete parlare di questa vicenda, è incredibile, il sindaco di Sanremo poco fa ci ha detto che questo rapper non dovrebbe... Junior Kelly, che nessuno conosce, Kelly. Kelly era il cane di un cocker di... Io non l'avevo mai sentito nominare prima, però io sono un vecchio, quindi infatti, magari... Ma no, corre voce che neanche i giovani in realtà lo conoscono Kelly. Ma nessuno, cioè, nessuno lo conosce. In realtà, effettivamente, cioè, non è Sfera e Basta, non è, voglio dire. Però, tra l'altro, oggi il Fatto Quotidiano dice, ma scusa, Jimi Hendrix sparava alla sua donna in Hey Joe. I misogini Stones, i Led Zeppelin, il Sultano Prince, l'intera scena rap statunitense, i Vasco Rossi, signori, vogliamo far sentire Vasco Rossi, ha portato Colpa d'Alfredo a Sanremo. Cosa diceva? Cosa cantava in Colpa non d'Alfredo? Ha portato Colpa d'Alfredo a Sanremo. Non ha portato a Sanremo, no. Vabbè, però a casa con il negro la troia. Cioè, nel senso, no? Mi sono distratto un attimo. Avete sentito, no? Colpa d'Alfredo. E vabbè. Allora scusatemi, tocca fare un'opportunità che fa sprecare tutte le occasioni. No, perché è da stamattina che leggo Elisabetta Fusconi delle cose imbarazzanti, vergognose che stanno prolungando il mio Blue Monday. Sì. Cioè, non so, oggi Mattia Feltri, massima stima per carità, gli affiderei il palazzo del potere, ma mi sta confondendo il sacro col profano, come fai? Attenzione, Elisabetta Fusconi, non puoi toccare la Svizzera e Vasco Rossi. Ma no, ma ci sono due cose, cioè, la non Svizzera puoi mescolarmi la poesia di Colpa d'Alfredo, per quanto linguaggio sì, sboccato, sì, con un testo no, di Junior Kelly, che peraltro ho preso ieri dalla sua esistenza, no, però dai... Secondo me il discorso è semplicemente che col tempo le sensibilità cambiano, quindi quello che veniva accettato normalmente negli anni 70 adesso sembra una cosa fuori luogo. È andata a casa con il negro là e poi no. In un colpo solo ne ho offesi due. Sì. Esatto. Non vorrei dire, ma io ieri sera in una chat di mamme ben pensanti questo stesso epiteto femminile me lo sono ritrovato, per cui dai adesso. Ma ho capito, ma in una non è paragonabile. Allora, perché Vasco Rossi può cantare questo 20 anni fa, 30 anni fa? Cambiano le sensibilità. Cambiano le sensibilità. Dispiace dare ragione a Leonardo Manera. Guarda, non sai ma come mi piange il cuore. Ma no, ma scusate. Anche a te, sì, anche a te. Guarda, mi mortifico nel cuore oggi. Adesso vorrei dire anche un'altra cosa. Per trasparenza radiofonica, io parlerei dell'esegesi del testo Colpa d'Alfredo che Lorenzo Nespoli ha dato stamattina prima di andare in onda, ma per correttezza nei confronti degli ascoltatori e anche nei confronti di Leonardo Manera, che è giusto che sappia. Voi sapete tutti che in Colpa d'Alfredo, oltre a quell'epiteto di cui abbiamo già parlato, Vasco dice che insomma questo africano se le porta, se le accompagna a casa una diversa tutte le sere. Chissà che cosa gli racconta, per me è la macchina che c'ha che conta. Ecco, la macchina per Lorenzo Nespoli. Dillo tu, io non ho coraggio. È una metafora, niente, siamo all'esegesi, cioè, però allora, vi rendete conto? No, Nespoli, diciamolo tutto, da 30 anni che è cresciuto con la credenza che quella macchina significasse dimensioni della macchina. Comunque, cara Elisabetta Fusconi, non toccate le Vasco. Oh, ma ragazzi, non toccate Vasco la Svizzera. Junior Kelly potete cantargliele, ne avete anche ben donne, ecco. Insomma il testo è abbastanza inquietante. Tolgo l'abbastanza, però Vasco è poesia, dai. Però io Vasco cito un mio amico che su Facebook, Matteo Monforte, ha scritto: non lo so, io sono cresciuto con Morrison che mi urlava uccidi tuo padre e scopa tua madre, con Lou Reed che cantava eroina sei mia moglie, Clapton che inneggiava la bamba, i Sex Pistols che sbraitavano sono l'anticristo e Vasco appunto che gridava quello che abbiamo detto. E poi dice lui: a me sto Junior Kelly o come cazzo si chiama mi sembra un Boy Scout, dice lui. Sì, a confronto c'è da dire che oggi la nostra Miriam Lucchetti, come vedete in redazione parlavamo di questo, ha detto: vabbè, ma non è che quei testi che anche tu hai citato, Leonardo, andassero bene, evidentemente. No, ma magari c'era qualcuno che faceva anche delle polemiche allora, forse, sì, su questi testi. Sono cambiati i tempi, è cambiata la sensibilità. Comunque, dopodiché resta è il fatto che tutti vogliono comunque andare a Sanremo. Cioè, io non mi spiego questo, che una trasgressione impersonificata in Junior Kelly voglia poi andare a Sanremo. Perché alla fine vogliono tutti andare? È quello che dico io, nel pezzo che seguirà. Vabbè, quindi è inutile la presenza di Leonardo Manera, abbiamo bruciato anche il suo pezzo, quindi possiamo devi stare mutande, Leo. Vado. Cara Elisabetta Fusconi, grazie per questa incursione. Cioè, grazie. Prego, è un piacere, quando volete. Domani di che cosa dobbiamo non parlare? Non lo so, ma venire a castigarvi è per me un piacere, sottile, e quindi... Hai visto oggi come è entrata in studio con arroganza? Ma infatti... Il primo giorno era tutta lì un po' titubante, oggi ha spalancato la porta con arroganza e si è seduta, ha preso, ha fatto... Dicono... Addirittura è entrato, non so, non ho visto se era Filippo Reggio o Lorenzo, sono entrati qui a sistemare proprio i volumi pro domo suo. Sono arrivati quattro tecnici, comunque ci dicono anche Elisabetta Fusconi è la mia guru, l'aspetto ogni giorno per il commento, c'è anche toglietela la tella e mettete Fusconi, ma la gente è impazzita, va bene. Con allora, questo mi congedo, va bene. Buona continuazione. Forza Vasco, anche se Ligabue è meglio. Ciao, a domani. Su questa è stata l'ammazzata finale, anche se Ligabue è meglio, avrebbe voluto tirarmi una roncolata in testa. E allora, vogliamo sentire Giampiero dalla provincia di Treviso? Buongiorno. C'è il traffico adesso. Sì, vabbè, dopo c'è il traffico. Giampiero. Sì, chiamo per il fumo allo stadio. Sì. Io sono un ex fumatore. Sì. Anch'io fumavo allo stadio, mi sceglievo se lo stadio non era pieno dei posti in cui non ci fosse gente e mi fumavo le mie belle sigarette. Adesso vado spesso in Germania a vedermi partite di calcio della Bundesliga, due volte all'anno, e lì ho scoperto improvvisamente che non si fuma allo stadio. Bene, e bene. Io l'ultima partita che sono andato a vedere avevo davanti a me 3-4 amici che fumavano bellamente. Improvvisamente scende dalla scaletta un bel poliziotto bello robusto che li invita a smettere di fumare. Uno ha fatto resistenza, non voleva saperne, lo hanno preso e portato al furgone all'esterno dello stadio per dargli la bella multa. Chi non rispetta le regole è così. Giampiero, aspetti che devo andare al traffico, la ringrazio, altrimenti si sfora. Poi adesso dobbiamo ascoltare Manera, che cosa ha da dirci su Sanremo. L'ha già detto Elisabetta. Vabbè, adesso non abbatterti così. L'ha detto Elisabetta. E tu ripetilo tra poco. Ripetita Juvent. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma dove l'avevate nascosta, Elisabetta Fusconi? Grande, brava, voce bellissima. Ma ci sono grandi novità in pentola per l'anno prossimo. Cioè? Adesso non si può ancora dire, ma qui Alessandro stava dicendo che per l'anno prossimo bollono. Ma no. In pentola grandi novità. Ma noi non l'abbiamo nascosta. Grandi novità Radio comunque, 24 qui, uno nessuno 100 Milan. Comunque Fusconi non l'abbiamo mai nascosta. Anzi, purtroppo è ben visibile tutti i giorni, vi assicuro, qui in redazione. Cosa bolle in pentola? Di cosa bolle? Niente. Bollono in pentola grandi novità. Niente, chissà di che cosa ci vorrai parlare adesso, caro Leonardo. Mi aggancio a quello che avete detto voi. Io ieri ho visto che c'era questa richiesta, ero lì nella mia casa da solo. Ho detto, vabbè, se c'è questa richiesta imprescindibile, diamoci da fare sul tema. Prego. Va bene, prego. E allora, va bene, abbiamo parlato un attimo fa. Anche quest'anno le polemiche su Sanremo si sprecano. Prima perché Amadeus ha comunicato la lista dei cantanti partecipanti a un solo quotidiano, a Repubblica. Poi per la gaffe sulle co-conduttrici del festival. E quindi per la partecipazione ormai in bilico del rapper Junior Kelly, che in passato ha fatto una canzone di cattivissimo gusto e che ormai molti vorrebbero fuori da Sanremo. Il manager del rapper sostiene che quella canzone non è sessista, ma che anzi il rap va capito. Avrete letto alcune delle parole del testo, parla di ammazzare una tale ragazza che si chiama Gioia, dopo essersi riferito a lei in modo non proprio carino dal punto di vista sessuale e altre perle di questo genere. Poi però il manager del rapper spiega che è la grammatica del rap, che l'arte può avere un linguaggio esplicito e il rap fa grande uso di elementi narrativi, di finzione, di immaginazione che non rappresentano il pensiero dell'artista. Ecco, a parte il tentativo piuttosto evidente di arrampicarsi sugli specchi, il fatto è che i rapper, o meglio alcuni rapper, vorrebbero porsi come alternativa al sistema, come diversi dal mondo che li circonda, più veri, più crudi, ma sinceri. Ma poi invece fanno di tutto per poter andare a Sanremo, che dal sistema è l'espressione massima. Vorrebbero essere a loro modo rivoluzionari, duri e puri, al limite anche espliciti e sessisti nel loro modo di comporre. Ma poi, di fronte al festival più nazional popolare d'Italia, sono pronti a diventare più nazional popolari di Toto Cotugno, più romantici di Michele Zarrillo, più strappalacrime di Albano, senza Romina. tutto ovviamente in nome del Festival di Sanremo presentato da Amadeus, che del nazional popolare rassicurante è sicuramente l'emblema. E i rapper? E il signor Junior Kelly, così duro e puro, così crudo, così vero, così sincero, ora, per bocca del suo manager, trova giustificazioni di ogni tipo pur di poter comparire, stavolta senza maschera, sul palco di Sanremo presentato dal signor Amadeus. Insomma, volendo assegnare il premio Giachetti, hanno la faccia come il culo. Ecco, questa è la grande presa per il culo di cui noi, ma in particolare i nostri figli, i ragazzini che amano il rap o il trap, sono vittime. Le vittime vere sono quelli che ci credono, che poi appunto sono i più giovani, quelli che credono davvero ai rapper, rapper che si pongono in modo così alternativo, ma così alternativo che la loro massima alternativa è Amadeus. È un sistema che ingurgita tutto e che poi per fare ascolto si nutre anche di queste più o meno condivisibili polemiche. Ma davvero, mi chiedo io, i dirigenti sono dispiaciuti per tutte ste polemiche o in fondo si fregano le mani in nome degli ascolti che probabilmente ne gioveranno? Così anche le telepromozioni e le pubblicità del festival saranno magari vendute a qualche zero in più e alla fine, in un modo o nell'altro, comunque vada, con cantanti più o meno sessisti, con donne che fanno più o meno passi indietro, comunque vada, sarà un successo. La fregatura, ripeto, sarà per i ragazzini, per quelli che dietro le canzoni ci vedono ancora verità e perfino qualcosa in cui credere. Quello che sinceramente penso io è che al signor Junior Kelly conveniva essere o fingere di essere sessista finché non faceva Sanremo e doveva far breccia sui ragazzini arrabbiati. Adesso sessista non lo è più, visto che Sanremo si avvicina, e magari tra qualche anno farà una bella canzone melodica su quanto è bello e commovente essere padre e ringrazierà anche con qualche lacrimuccia alla cipolla la donna che padre lo ha reso. Ma sono le regole del gioco e prima si capiscono meglio è. È uno show, anche se io preferivo il Bracco Baldo Show. Era un cartone animato e si capiva subito che era finto, senza troppi equivoci e senza troppe fregature per quelli che ancora ci credono. E va bene, ma l'aveva già detto Fusconi questo. L'aveva già detto lei. Tra l'altro dicono se andaste via voi due e conducesse Fusconi, c'è anche questa. Ma io sono d'accordo, è questo che bolle in pentola. Bolle in pentola. Grande novità per l'anno prossimo. Comunque, se ho capito bene, tu quindi a questa, tutta questa vicenda, a questi che poi dopo daresti un bel... Il premio Giachetti. Ale, hai detto tu, eh? Querele a lui. Avete la faccia come il culo. Va bene, va bene. Angelo, dalla provincia di Taranto, eccoci Angelo. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno, grande piacere per me. Innanzitutto vorrei complimentarmi con voi per gli interventi che sono stati fatti in precedenza, in particolare con la dottoressa Falcone che è stata vittima di quel drammatico evento in Calabria. Non a caso il mio intervento in rappresentanza anche della consulta nazionale della Soconsum del Ministero dello Sviluppo Economico riconosciuta è proprio per questo, per rafforzare l'idea che in Italia, soprattutto con le ultime politiche, però senza voler essere questo assolutamente un inciso negativo, ha un qualcosa ancora di trascurato, perché non è un dato di ieri, ma l'ha pubblicato la CGIE di Mestre l'anno scorso, a fine dell'anno 2019, che la corruzione costa più dell'evasione fiscale. Certo. E quindi diciamo lei vuole che... sottolineare l'importanza del gesto della Falcone. Ma assolutamente sì, anzi io sarei dell'idea che donne così, ma al di là del sesso, proprio persone del genere andrebbero premiate tutti i giorni, al netto di quella che potrebbe essere o non essere la responsabilità penale del prefetto ormai su questo caduto. Sì, che si vedrà. Angelo, la ringraziamo, dobbiamo andare al giornale radio. Non è che bolle in pentola qualcosa per te, caro Leonardo? No, che stai cercando una via d'uscita, Elisabetta. Stai per caso cercando una via d'uscita? Guarda che tu ormai sei qua legato a questa poltrona con una manetta. Non ho mai contratti. Io sono esterno. Cosa vuol dire? Sono non esterno. Ho mai contratti. Sono un esterno. Ma smetti. Fa lo spaccone. Dai, andiamo al giornale radio. 1, nessuno, 100 Milan. Milan, io ho 46 anni e ascolto Shiva, Sfera e Basta, Capoplazza, che spaccano di brutto. La Fusconi è bella e soprattutto è brava a restare sempre un passo indietro rispetto ai due presentatori. Bella Fusconi. Bellissima, bellissima, e sta un passo indietro. È da anni accanto ad Alessandro Milan, però indietro, rimanendo sempre un passo indietro. Guarda, sì, che sì, questa sì, è una grande dote. Sì, sì, sì, sì, certo. C'è Miriam Lucchetti che fa così, lo faccio a beneficio di chi ci segue in TV, cioè nessuno. Ma che cosa con la mano a punta, allora, in alto, ma che indietro, ma che indietro. A parte che Miriam Lucchetti fa, come si dice qui a Milano, il la barra ganassa, però senza ganassa, voler mai venire al microfono. Perché... Potremmo fare come il gioco della cadrega. Cosa vuol dire ganassa? Lo chiediamo a un milanese doc, Marione Adinolfi. Marione, ciao, come sta? Buongiorno. Fusconi fa la ganassa, la ganassa. Il coatto a Roma, insomma. Non è il coatto. È come il bullo. Perché il bullo è il coatto. Ma nel ganassa c'è pure un po' di coattume, credo, no? Non è, sì, una... coattume, non lo so, coattume è un termine che noi sconosciamo. Non... Frequentate un po' anche queste latitudini, venite a Roma ogni tanto, che non è male. Senti, un bellissimo treno, che è la cosa più bella che c'è a Milano. Infatti, ancora, ancora con questi luoghi comuni, maledizione. No, la cosa più bella di Milano è il treno per Roma, questa è una battuta vecchissima, vecchissima. Siamo ancora qui. Vabbè, caro Marione, guarda che noi abbiamo parlato di Sanremo fino a poco fa. Tu, per te le donne devono stare un passo indietro, tra l'altro. No, dipende dalla situazione, però adesso francamente io mi schiero col partito di Fiorello. Ma che c'era? Ormai manca solo la pena di morte per questo povero Amadeus. Ha detto cose, tutto sommato, non così surreali. Cioè, la fidanzata di Valentino Rossi, io francamente non la conoscevo. Voi sapevate chi fosse? Cioè, no. Io non ho mai sentita nominare, insomma, per cui indubbiamente sta un passo indietro rispetto alla notorietà di Valentino Rossi. Io non so perché debba essere massacrato questo povero Amadeus. Sì. Un'idea me la sono fatta. No, però ha detto, diciamo che... Amadeus ha detto: io non sono contro le donne perché non mi credono. Ma non è che non ti credono, ti inchiodano. Cioè, ha fatto una conferenza stampa disastrosa. Adesso, obiettivamente. Più che altro, quella conferenza stampa ha detto: questa è bellissima, questa è una strafiga, questa è sexy, questa è bella. Anche un po' di proprietà di linguaggio, forse. Sì, cioè, qualche aggettivo diverso. Selezionano le conduttrici di Sanremo per il qui. Fatemi capire, no, ma questa cosa è interessante. Questo è il dramma. Abbiamo selezionato sempre. No, non mi sembra che abbiamo preso nelle migliori università del paese. Ogni volta sono state selezionate delle ragazze di spettacolo che inevitabilmente fanno anche della bella presenza. Il loro ruolo, non francamente, veramente sembra no, però in questo caso non ci sono solo donne di spettacolo, ci sono anche le conduttrici del telegiornale che magari non sono state selezionate solo per lo spettacolo. Rula Gebreal non è dello spettacolo, voglio dire, è una giornalista. Forse anche il fatto che una ragazza avvenente ha avuto un peso, insomma. Ecco. Perché non hanno preso Maria Giovanna Maglia, che è analogamente intelligente, diciamo. No, questo è sicuramente vero, però è anche vero che però è anche vero che se no prendevamo Maria Giovanna, ma ti posso fare l'elenco di decine di colleghe di assoluta intelligenza. Qualcuna pensa un po' più intelligente e preparata di Rula Gebreal, ma non gli fanno condurre Sanremo. Come mai? Vabbè, ma ecco, la mettiamo questo punto interrogativo, non così, tanto per mettere un po' di pepe su questa. Ma sicuramente la bellezza conta, questo è inutile negarlo, basta vedere tutte le alcune conduttrici. Non diciamo che stupidaggi, ci abbiamo sempre selezionate, da che mondo è mondo, le showgirl sono selezionate su quel piano. E anche questa cosa in cui si è voluta fare la cosa ipocrita di dire che si chiamava l'intellettuale, non si è chiamata Maria Giovanna Maglie. Si è chiamata la ragazza di bella presenza. Senti un po', ma invece perché questo... Perché Rula Gebreal invece assurge a Rita Levi Montalcini, che non è... Adesso, neanche la maglia è Rita Levi Montalcini. Certo. Però lei non la fanno con Sanremo. Senti un po', ma invece questo rapper che deve fare? Prima il sindaco ci ha detto che non dovrebbe andare a Sanremo, per come tratta... Ma io pure questa cosa, ma me la spiegate bene, perché... guardate che se leggete i testi, non lo so, te ne dico uno a caso, di Achille Lauro, che adesso viene celebrato come l'uomo che l'anno scorso c'era. Che l'anno scorso, non è che trovavate niente di molto molto diverso. Dentro la cultura rap e trap, come sapete, da Eminem in giù, da 20 anni, purtroppo, lo dico perché è un purtroppo, a me non piace, però c'è quel tipo di immaginario che viene raccontato e citato da ognuno di questi protagonisti, che abbiamo tranquillamente utilizzato come giudici del programma di talent, come non c'è mai stato alcun problema. Beh, questo è vero, lo dicevo anch'io prima, c'è un'ipocrisia di fondo, nel senso che poi tutti questi vengono lavati. Ci mettiamo a contro Sanremo. Gli ipocriti, dai, mettiamoci un po' controvento, contro gli ipocriti. E tu ti metti sempre controvento. Contro sti cacchio di ipocriti che ci dicono che la fidanzata di Valentino Rossi doveva essere trattata per il grandissimo acume intellettuale. No, ho capito, che però ha interpretato. Ma, vabbè, ma tu non c'è nessun'altra ragione al mondo. Ma ho capito, ma tu non puoi andare in Rai a dire ho chiamato questa perché è bella. Perché allora ma il discorso di più è l'unica ragione al mondo. Va bene. Ti prendi un po' di merda in faccia, liberi, ecco. La polemica, Leonardo, siamo liberi e diciamo viva Amadeus che ha detto la verità. Però lì la polemica forte è stata per la capacità di stare due passi, un passo indietro, sì, esatto, rispetto a quella. Ma tra l'altro è una quell'altra sta con l'ombrellino, ma è ovvio che sta. No, ma che ombrellino? Ma fa la modella, cioè ci avrà la sua fa la carriera, arrivata, ha scoperto la cura per cancro, ha scoperto. E dai, su, fa la modella, nessuno ha mai sentito nominare. Ma perché dobbiamo fare sto teatrino in Vabbè. Senti Marione, ma noi ti avevamo chiamato in realtà perché a Roma il traffico a Roma, sì, è uscita una classifica che a Roma è la città in cui si, dopo Bogotà, si passa più tempo nel traffico in auto. Tu no, perché tu prendi il tram, che te frega. Io ho rottamato la macchina. Prendo il tram, fotografo le persone sul tram, che è una cosa divertentissima. Sì, è vero, me lo ricordo. E ognuno gli assegno i miei pensieri. Ecco a voi la casalinga che sta pensando al Germanicum, ed è sempre una cosa abbastanza interessante vedere come ciò che noi possiamo. Potresti chiedere cosa ne pensano del Germanicum, effettivamente. Esatto. Fai un sondaggio, chiedi a 100 persone cosa ne pensano del Germanicum. Penseranno a qualche migrante pubblico. Vichingo che arriva. Io adoro il mezzo pubblico, perché il mezzo pubblico ti mette immediatamente a contatto con il respiro vero, diciamo, della mattina. Io la mattina il porto popolo. Mia figlia a scuola, e non il popolo, le persone che hanno i loro problemi. Questo è sempre qualcosa, insomma, da tenere ben presente. Perché esiste, secondo me, un piano dei problemi di un segmentino di persone molto minimale, e poi il piano dei problemi veri delle persone che vivono la loro quotidianità. E secondo me stare a contatto con la quotidianità è molto utile, quindi meno male che a Roma si può stare su un mezzo pubblico anche dai 45 ai 50 minuti, succede, per attenderlo, per entrarci dentro, poi sapete che insomma deve esserci pure un po' di spazio dentro a sto mezzo pubblico per accogliermi, perché altrimenti non c'entro fisicamente, la mattina presto è abbastanza in condizioni di difficoltà. Però viva il traffico, io sono molto contento di vivere in una città trafficata. Allora, poi tu godi per le disgrazie altrui, state imbottigliati nel traffico, tu pensi questo? Stiamoci insieme, ci sto anche io, mi becco le nevrosi, perché ci sono delle nevrosi interessantissime da guardare. Aspetta un attimo, che Manera ti voleva dire una cosa. Mi ha scritto una mia amica, Raffaella. Rispetto a quello che ha detto Mario Di Nolfi, un insulto da Di Nolfi sul Festival di Sanremo, mi ha detto: l'intervento di questo tizio è assolutamente in linea col mio pensiero, il resto è moralismo e ipocrisia. Ma scusa, ma tu dovevi citare uno che dice che Di Nolfi... È arrivato a Di Nolfi a liberare le donne. Esattamente. Ti faccio vedere Miriam Lucchetti dall'altra parte del vetro, che gesti che ti fanno. Anche la Miriam è con me, me l'ha detto prima. Non ci credo proprio. Senti un po', Marione, nel salutarti, un bel pronosticone di quelli che non ci facevi, di quanti punti la Juve surclassa l'Inter? Senti come lo dico con grande goduria. Speravo di non dover rispondere alle ovvietà, insomma, in questa trasmissione. Mi pare che è consegnato, purtroppo, questo campionato. condizionato all'ennesimo monologo e speriamo solo che quella quella notte che conta ci sia una maglia a strisce che solleva la coppa che conta. Bisogna anche dire che le squadre di Sarri però in primavera hanno sempre un bel calo, un crollo inaspettato. Ma io infatti vedo la fioritura del Milan lì proprio dietro l'angolo, la fioratura grazie a Rebic, la novità, la grande novità. Che l'anno scorso facevi lo spaccone, hai comprato il biglietto per la finale 3 mesi prima e poi l'hai rivenduto. Quest'anno non l'hai comprato, hai già abbassato le penne. Sono diventato un mediocre scaramantico, esatto. Guarda che roba. Bravo, allora per punizione lanciaci le serate di Sanremo. No, certo, Rula Gebreal, poi ci riassumi tutto di quello che dice, sì. E per punizione adesso ci lanci il traffico, forse è il momento del traffico. Allora ragazzi, è il momento giusto per seguire il traffico di Radio 24 e poi tornate su Uno, Nessuno, 100.000, il più bel programma di Radio 24. Uno, Nessuno, 100.000. Allora, 10-19 minuti, sapete che in questo contenitore fino alle 11 mettiamo insieme notizie un po' più leggere, perché dai, la vicenda di Sanremo è poi leggera, no? Sono polemiche che ogni anno si accompagnano al Festival della Canzone Italiana e notizie invece più importanti che ci fanno un po' riflettere. Caro Leonardo, vogliamo dare il buongiorno comunque io allo stadio con te non ci vengo più perché per una partita senti che voce che ho. Basta. Perché tu hai ceduto, io sapevo che di sera avrei dovuto lavorare, sono stato muto tutto il tempo. Va bene, salutiamo con piacere Elisa Bacciotti che è direttrice delle campagne di Oxfam Italia. Buongiorno e benvenuta Elisa. Buongiorno a voi. Allora, come sapete, si apre il forum di Davos dove ci sono i potenti della Terra e tra i potenti dobbiamo mettere anche Greta Thunberg perché giustamente lo è diventata con il suo messaggio potente della Terra. Allora, proprio in questo giorno, in coincidenza anche con l'apertura di Davos, il forum di Davos, Oxfam ha reso noto alcuni dati che sicuramente fanno un po' riflettere. Ne cito un paio come titoli, poi Elisa Bacciotti ce li spiega meglio. Ci sono 2.153 persone nel mondo che detengono una ricchezza che è superiore alla ricchezza detenuta da 4 miliardi e 600 milioni di persone. Un altro dato su cui riflettere, le 22 persone più facoltose al mondo superano il patrimonio di tutte le donne dell'Africa, che sono tante milioni. Allora, Elisa Bacciotti, che senso ha raccontare con questi titoli la sproporzione nella distribuzione delle ricchezze del mondo? Ha il senso di voler accendere i riflettori su un mondo in cui un sistema economico sta sempre di più estremizzando la disuguaglianza di ricchezza, ma vorrei sottolineare anche la disuguaglianza di reddito fra molti, moltissimi che vedono le proprie fortune, il proprio potere economico, anche il proprio valore, perché si parla anche di crescita di ricchezza e di reddito dal lavoro, consolidarsi, e di milioni di persone che non vedono adeguatamente ricompensati i propri sforzi, pur lavorando, pur operando a contribuzione dell'economia del nostro pianeta. A me, insieme alle due statistiche che avete citato, preme anche sottolinearne una terza. Ad oggi un lavoratore che è collocato nel 10% delle retribuzioni più basse, quindi che fa parte del 10% dei lavoratori più poveri, dovrebbe lavorare quasi 3 secoli e mezzo per raggiungere la retribuzione annuale media di un lavoratore collocato nel 10% dei lavoratori più ricchi. Di fatto questo rapporto, il nostro messaggio è quello di voler rimettere al centro un tema che è quello prettamente economico. L'economia è la scienza che è nata per liberare l'umanità dal bisogno, invece, come dire, ad oggi questo sistema economico sta facendo sprofondare molti e moltissimi in un contesto nel quale, pur lavorando, pur operando, i propri bisogni non solo non vengono raggiunti, non è possibile, insomma, rispondere, ma vengono addirittura tolti, buttati fuori da un sistema di dignità. Noi ci dimentichiamo anche che esiste un'agenda del 2030 firmata all'ONU e firmata da tutti i paesi, quindi dell'ONU, alla quale tutti i paesi dovrebbero attenersi, ed è un'agenda molto complessa, molto complicata, con diversi punti. E tra questi c'è anche appunto la riduzione della fame, la riduzione delle disuguaglianze economiche, l'accesso alle cure, perché poi diseguaglianze economiche non c'è nessuna invidia verso la ricchezza, ma c'è il fatto che se ci sono sacche di popolazioni povere non c'è l'accesso alle cure, non c'è l'accesso alla crescita, non c'è l'accesso a... Sì, che poi non sono sacche ma sono proprio interi continenti. Sì, interi continenti, che... insomma. Sì, ma infatti... stona la disproporzione, però volevo dire, Elisa Bacciotti, non c'è un'idea di voler mettere alla berlina i ricchi per dire siete voi la causa di tutto, no? Certamente no, il punto non è additare i 2000 miliardari della lista di Forbes o le persone appunto che hanno accumulato più ricchezza netta a livello globale, ma anche nel nostro paese. Molte di queste persone, peraltro, sono attive nell'ambito della beneficenza, nell'ambito, voglio dire, del ricompensare in qualche modo la società rispetto ai loro guadagni. Il punto è accendere i riflettori su un sistema che, come dire, produce nuovo reddito, produce nuova ricchezza a livello globale, ma le cui dinamiche portano questa nuova ricchezza, portano questo nuovo reddito a finire nelle tasche di chi ha già e non a sgocciolare, si diceva un tempo, verso nelle tasche di coloro che hanno meno. Quindi c'è un tema, ne abbiamo parlato anche in passato, la povertà estrema nel nostro mondo sta diminuendo, in sì. Cina ed India sono milioni le persone che sono uscite da una situazione di povertà estrema che è $5.50 al giorno, però se non ci fosse così tanta disuguaglianza, così se allo stesso tempo la disuguaglianza non crescesse così tanto, sarebbero molte di più le persone che oggi potrebbero uscire dalla povertà. Quindi di fatto una situazione di crescente stratificazione, di distribuzione di ricchezza e di reddito sta rallentando l'uscita dalla povertà estrema di milioni di persone. Questo è il messaggio del nostro rapporto ed è questo su cui vorremmo che i leader riuniti al Foro Economico, certo, Mondiale si anche su questo. C'è anche un dato molto interessante sull'Italia. Il 30% dei giovani occupati, secondo questo rapporto di Oxfam, guadagna meno di €800 al mese e il 13% degli under 29 versa in condizione di povertà lavorativa. Cosa significa povertà lavorativa, Bacciotti? Povertà lavorativa significa che nonostante queste persone siano occupate, nonostante lavorino, queste persone non sono in grado di superare un benchmark che, come dire, le fa uscire, le classifica come uscite dalla povertà. Di fatto si tratta proprio di working poor, come si dice, sì, in inglese, cioè persone che pur lavorando non riescono a sollevarsi da una condizione di povertà relativa. Questo è un tema fondamentale ed è, come dire, emblematico proprio dell'impatto che la disuguaglianza ha e che è diverso naturalmente da paesi a paesi, da paesi più ricchi a paesi più poveri. In Italia la nostra analisi vuole porre l'attenzione sul fatto che a sopportare il costo di una disuguaglianza crescente di reddito sono soprattutto le giovani generazioni. Un altro dato che mi pare rilevante dare è che l'Italia è un paese dall'ascensore sociale bloccato. Ad oggi un terzo dei figli dei genitori più poveri è destinato a rimanere fermo al piano economico in cui si trovano i loro genitori, mentre invece più della metà di dei figli di genitori ricchi mantengono la stessa posizione. E spesso i genitori poveri devono magari ulteriormente impoverirsi per aiutare i figli in condizioni complicate. Sì, questo è un ulteriore. C'è il cellulare che ci ha abbandonato proprio in chiusura. Comunque sembra che i dati che ci ha dato Elisa Bacciotti di Oxfam Italia siano dati molto interessanti su cui riflettere. Poi se volete prendete in mano il report. Io non amo mai, non capisco perché le persone, molti arrivano con messaggi, arrivano con le conclusioni, quelle che devono tra le 10:28 e le 10:29 dire: e allora come si fa? Prendiamo i soldi ai ricchi e li diamo ai poveri? Cioè pensano di risolvere un problema che è sul quale il mondo, i grandi del mondo, l'ONU, l'Agenda 2030 si interroga da decenni. Lo vogliono risolvere tra le 10:28 e le 10:29. Come se il sistema non è così. Il sistema non si può cambiare con un messaggio. Magari non si può neanche cambiare, magari ci si prova e non ci si riesce. Però trovare le soluzioni in 30 secondi, insomma, mi sembrano robe alla Mauro Meazza. No, scherzo. Ho saputo che però Mauro Meazza rientra in queste 2000 persone che. Ah sì. Sì. C'è l'iscritto, guarda, il quinto o il sesto. Un'elite di 2502 paperoni più Mauro Meazza detiene una ricchezza superiore. Perché lui con i suoi consigli di investimento a questi paperoni ha delle grosse percentuali. E quindi sì, ma lui è proprio del patrimonio delle 22 persone più facoltose. Qui è un po' infastidito perché lui voleva che fossero 23, ma non l'hanno fatto entrare di pochissimo. Con il patrimonio non è riuscito a entrare nelle 22 persone più ricche del mondo. Ma chissà, magari l'anno prossimo briga di qui, briga di là. Si pone in modo molto così, no? Senza farsi notare, ma è smargiasso nell'anima. L'uomo smargiasso. Va bene, caro Leonardo, vuoi lanciare tu la borsa? Oggi ti piace la sigla, quindi poi... No, guarda, adesso il momento con la sigla più brutta di Radio 24, la borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Uno, Nessuno, 100 Milan. Voglio fare un appello ad Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo. Ti sei messo contro tutti, ti mancano gli anziani, di qualcosa contro gli anziani e soprattutto di qualcosa contro Fiorello. Ti manca solo lui ad avere contro, perché è l'unico rimasto che ancora è con te. È Fiorello, che è vero, tra l'altro non ho visto i vecchi più che gli anziani. Ma ho letto che Fiorello è andato a dare manforte ad Amadeus. Sì, ha detto gli manca la pena di morte, poi dopo abbiamo fatto tutto per Amadeus. La per grande Fiorello di qualcosa contro gli anziani e poi dopo basta, cioè una volta che si mette contro gli anziani. Io penso che dopo Sanremo sparirà per qualche anno Amadeus. Ma no, non so ma se guarda, continuerà a condurre. Ma guarda che dopo la prima serata adesso, le polemiche saranno finite. Sì, ma francamente c'è una sovraesposizione adesso di Amadeus che me lo trovo dappertutto, no? Quindi un po' tanto. Anch'io effettivamente sono andato in cantina, ho aperto, è uscito Amadeus, cosa ci fa? Ero qua, va bene. È vero che poi lui comunque insomma non vorrebbe inimicarsi nessuno in realtà, ma non volendo inimicarsi nessuno poi ne pesta una dietro l'altra, ma senza volerlo. Cioè, dovrebbe non è che... veramente dire qualcosa contro gli anziani adesso. Non è che lui vuole fare polemica, anzi lui vorrebbe essere aperto e disponibile con tutti e fare complimenti a tutti, ma facendo complimenti ne pesta una dopo l'altra, tipo esordisce a Sanremo e dice: me li vedo tutti, gli anziani brontoloni dopo una sera, dopo una giornata solita brontolare, adesso qui davanti al televisore, questi brontoloni che rompono le scatole, questo peso della società e gli anziani, no, Amadeus, sto facendo quello che potrebbe dire Amadeus per così mettersi... rinimicarsi gli anziani almeno, cercando invece di fare loro un complimento. Almeno sposta l'attenzione dalla questione delle donne su una nuova categoria. E poi quando se la prende gli anziani, se la prende con i bambini, dopo non lo so, e poi basta. Va bene, dai, Caterina da Milano, buongiorno. Buongiorno, eccoci, buongiorno. Caterina, eccoci. Senta, non ho potuto fare a meno di chiamarvi. Bene. Perché questa bene. Perché ho stima di voi, mi sembrate delle persone sensibili e intelligenti e sono abbastanza allibita dal come è andato questo dibattito sulla questione di Sanremo. Sì. Perché voglio dire, ci sarebbero infinite cose da dire, ma questo signore è stato invitato a Sanremo probabilmente perché ha un sacco di visualizzazioni. Questo signore chi sa? Junior Kelly. Questo, guarda, io non lo conoscevo fino all'altro ieri, mentre conosco appunto, Sfere però, Basta, conosco esatto. Capo Plaza. Però ha un sacco di visualizzazioni fatte evidentemente dai ragazzini, non dalla gente dell'età matura. E è stato invitato perché ha le visualizzazioni per fare i moderni, queste robe qua. Allora, questo qui è perché un po' di polemica fa sempre bene. Allora, da stamattina sento dire che tanto è sempre stato così, per cui non importa. Chi l'ha detto? No, abbiamo detto non importa. Abbiamo detto che sempre. Abbiamo detto che. Quello era il succo in soldoni, è che insomma è inutile che facciamo tanto casino se c'è evidenziata la violenza sulle donne, perché tutto sommato lo facevano prima, lo facevano nel rock. Abbiamo detto che la sensibilità è cambiata. Caterina, abbiamo detto invece che la sensibilità è cambiata. Se dice così sembra che siamo a dire ma sì, la violenza sulle donne è sempre stata una cosa da fare, quindi si faceva. Non avete detto questo, però avete detto che nella abbiamo detto perché musica, abbiamo detto abbiamo detto perché c'è una sensibilità diversa oggi, ma bene, è un bene. Perché i testi di 30 anni fa, 20 anni non fa venivano stigmatizzati? Non venivano così criticati, forse erano criticati, ma non così tanto come adesso. La risposta è perché è cambiata appunto giustamente la sensibilità. Perché c'è stato il movimento del Me Too, eccetera, che peraltro è demonizzato. È considerato una scemenza da femministe un po' nevrasteniche. In realtà il punto è che io vi invito a fare un parallelo, cioè se invece questo simpatico signore invece di fare delle canzoni come lui tutti gli altri, perché sono tutte uguali, tra l'altro indirizzate a dei ragazzini che hanno delle menti molto plasmabili, in cui si raccontano delle esperienze sessuali che sono umilianti, violente, finiscono qui addirittura in questa canzone citata nell'omicidio rispetto alle donne o ragazzine. Cosa dovrebbe cantare? Ma di chi me ne importa a me di cosa dovrebbe cantare? Non dovrebbe cantare questa roba qua. Ma guardi Caterina, ma però io allora uno può educare i propri figli a dire guarda che ascolta bene i testi, ti sembrano dei testi, ma adesso uno canta quello che vuole. Poi secondo lei non è un problema? Cioè il fatto che ci sia una persona che viene anche guardi che non capiamo bene i testi di Eminem, che io adoro. Ma se li traducessimo alla lettera, ci sarebbe veramente da far ricrescere i capelli a Manera e farglieli drizzare. Però devo dire. Dica lei la soluzione: cos'è? Lo censuriamo? No. Vietiamo? Il video è veramente fastidioso. Io manco l'ho visto. Per esempio. Il video è allucinante, non è fastidioso, è allucinante. Ma l'ho ammazzata, gli ho strappato la pelle e gli ho fatto la maschera. Cioè, voglio dire, ci deve essere un punto fermo. Cioè, a un certo punto uno mette un punto fermo. Cioè, io finisco solo con una associazione. Se invece di fare questa roba qui dove magnifica una situazione, l'umiliazione è il minimo sindacale, poi finiamo alla violenza e finiamo all'omicidio. Se invece da una canzone uno arrivi all'omicidio. Non è una canzone, perché sa benissimo che non è una canzone isolata di un povero pazzo. Va bene, allora lei conosce Marco Masini? No, Marco Masini. in un testo di qualche anno fa diceva: mi verrebbe di strapparti quei vestiti da puttana e tenerti a gambe aperte finché viene domattina. Bella stronza. Certo, è sbagliato. Non è mica soltanto questo signore che si chiama Kelly, non so come si chiama, è che lui è la punta dell'iceberg di una situazione terrificante che finalmente viene alla luce. Perché il problema, cioè, io vi invito solo a fare una associazione. È venuto fuori un casino d'inferno quando c'è, giustamente, quando è venuta fuori la cosa dei bambini che facevano le chat pedofile e naziste. Allora, se invece di rendere glamour, perché questa è la realtà, perché queste canzoni rendono affascinante quella situazione lì orrenda. Vabbè, ma io vorrei sapere, scusi, Caterina, lei fa questa cosa. Da 10 minuti che sta parlando. Io vorrei capire, lei concretamente cosa propone? Che cosa propone di vietare questo tipo di canzoni? C'è la censura che stabilisce questa canzone è sessista? È un enorme movimento, ma serio, di presa di consapevolezza di questa cosa, che invece non c'è, perché c'è Di Nolfi che ci ride sopra, perché la gente pensa che noi donne siamo delle povere nevrastene. Ma no, guardi, cioè, il movimento c'è perché lei per esempio ne fa parte, ci sono persone che la pensano come lei. Pensare che tutti la debbano pensare come lei, ovviamente questo sarebbe un po' pretenzioso. Penso che sia un problema molto serio e sottovalutato, perché ripeto, se invece di esserci una ragazza lì brutalizzata in quel modo fosse magnificato una cosa del Ku Klux Klan, sicuramente ci sarebbe più sdegno. Su questo lei ha ragione. Però guardi che Non c'è sdegno per tutti, cioè, perché per esempio lei giustamente da donna dice si infervora per questo tema, perché non fa la stessa battaglia, ma non glielo chiedo polemicamente, per tutto l'inneggiare alla droga che c'è in questi stessi testi? Ma sono due cose completamente diverse. Qui parliamo di violazioni fondamentali di diritti umani. Beh, perché incitare un ragazzino che ascolta a bersi il succo rosa, come c'è in tutti i testi, che vuol dire di farsi di droghe, non crede che sia un problema? Io da padre me lo pongo come un problema. È un problema diverso, ma importante, quanto il rispetto delle donne. Ma c'è un universale rifiuto culturale del discorso della droga, a parte dei settori singoli, voglio dire, molto ristretti. Invece nel mondo attuale, in Europa e infinitamente peggio fuori dall'Europa, c'è una diffusa concezione che la violenza sulle donne non è vero. Questo, Caterina, fortunatamente su questo si non sbaglia, ci sarebbero state queste polemiche se fosse così. Esatto, cioè, se fosse così accettata non è così, non ci sarebbero neanche state le leggi, i movimenti, quindi su questo comunque l'abbiamo ascoltata con piacere. Guardi che Adinolfi non ci rideva sopra, diceva che queste polemiche andrebbero riferite in generale a tutto il mondo rap, che è così, e non solo per questo. Questa canzone rideva semmai sulla questione del passo indietro, la bellezza, su quello, non certo sul messaggio di questo rapper, che comunque tanto dai, a Sanremo non ci andrà. Questo secondo te finirà così? Potrebbe anche darsi che lui vada chiedendo scusa, così sarebbero tutti contenti e Sanremo avrebbe anche un picco di ascolti. Va bene, chi lo sa, tanto andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma non è assolutamente ipocrita fare tutto questo bordello che è stato fatto per delle dichiarazioni e poi consentire a uno che è fortemente, non solo è sessista, è quasi delinquenziale, di andare a cantare a Sanremo? Va bene. Anche il nostro ascoltatore allora interviene su questo. Allora, è venuto a ritrovarci, era un po' che era scomparso, Pierpaolo Garosio, che ha fondato un movimento che quindi... Buongiorno, sono Pierpaolo Garosio. Buongiorno. Ho detto l'altra volta, prima di tutto lei non mi interrompa quando sto parlando io, che io non l'ho interrotta per tutte le decine di minuti che lei ha parlato in precedenza. Non ho detto niente, quindi per cortesia mi ha invitato qui ospite ai microfoni, mi faccia parlare senza interrompere. Parli. Io non sono d'accordo con Matteo Salvini, sono un fuoriuscito dalla Lega. Sì. Per quale motivo? Perché? È troppo moderato. È troppo moderato Matteo Salvini. Quindi io ho fondato un movimento, PSSI, partito super sovranista italiano. PSSI. PSSI, abbiamo anche la nostra canzoncina. PSSI. PSSI anche tu, PSSI anche tu, vota PSSI anche tu. Super sovranista italiano, ti difende ogni giorno di più. Questo per entrare. Mi ricorda vagamente. Però qual è la nostra differenza principale rispetto agli altri partiti? Parola di Garosio. È che noi Parola di Garosio, è bello come slogan questo. Mi hai pensato dei manifesti? Qual è la nostra differenza? È che noi per finanziarci non chiediamo i soldi agli italiani, noi vendiamo degli oggetti. Per esempio, il vocabolario super sovranista italiano. Il vocabolario. Abbiamo fatto il vocabolario super sovranista. Ottimo. Ci può dare qualche esempio? Naturalmente. Allora prendiamo una parola a caso che trovo qui sul vocabolario super sovranista del PSSI: sì. Ciondolare. Vediamo cosa c'è su ciondolare. Significato di ciondolare: andare in giro, trascinarsi oziosamente per la città senza meta, spesso con il solo obiettivo di spacciare droga, come succede per lo più alle persone di colore nere. Ma perché, scusi? Prendiamo un'altra parola a caso. Questo nero, del vocabolario? Sì, super sovranista. Sì. Nero, che appartiene, per non dire negro, diciamo nero. Sono due parole diverse. È la stessa, sempre quel colore. Che appartiene a un nero, che appartiene a un gruppo umano con pelle nera oscura, naso largo e schiacciato, perché è probabilmente rotto in qualche rissa. Ma no! Capelli lanugosi. Ma cosa sta dicendo? Ma perché rissa? Capelli lanosi, labbra tumide e di solito quasi sempre con poca voglia di lavorare. Questo sul dizionario super sovranista. Poi per carità, sicuramente ci sarà anche qualche negro che ha voglia di lavorare, ma è un'eccezione. Sì. Trovare un negro che voglia lavorare è come trovare uno stilista eterosessuale, praticamente impossibile. Vabbè. Un ago nel pagliaio. Poi trovare uno stilista eterosessuale negro è come trovare il biglietto vincente alla Lotteria Italia. Sì. Sarebbe un miracolo. Vabbè. Allora, io non sono razzista. Sono realista. Ci sarà un motivo se tutte le cose nere hanno un significato negativo. Per esempio, la pecora nera. Infatti, le pecore bianche stanno lì, fanno la lana come Dio comanda. Le pecore nere vanno in giro a brucare la marijuana, ciondolando. A drogarsi, ciondolando, brucano la marijuana. Tanto a far la lana ci pensa le pecore bianche. Eccolo qui. No, lei non è razzista. Prendiamo un'altra parola del vocabolario super sovranista. Cinese. Per esempio, la C cinese. Che viene dalla Cina. Che appartiene a un gruppo umano con pelle gialla, sintomo di cattiva salute. E quindi potenzialmente infettivo. Incapaci di dire la R, che tra l'altro non mi sembra una cosa così complicata. Amico cinese, non è difficile dire la R. Prova a parlare lei in cinese. No, R, devi imparare a dire la R. Allora, gruppo umano particolarmente crudele, i nipoti di Gengis Khan. Nonostante di fronte ti sorridano sempre, ma appena ti giri te lo mettono in quel posto. Aia. Infatti è noto il detto: mi sento come con un cinese alle spalle, che è come dire mi hanno fregato. Io non l'ho mai sentito questo detto. Perciò bisogna diffidare dei cinesi, abituati di solito a circolare con valigie piene di contanti di dubbia provenienza. Sì. Questi vanno in giro a comprare tutto coi contanti, centinaia di milioni in contanti, e poi invece la guardia di finanza chi va a controllare? I bravi cittadini italiani che magari per necessità evadono qualche euro. Ma tutto si spiega. Perché si spiega? Perché si chiamano fiamme gialle e quindi amiche dei cinesi. Gruppo umano, quello di cinesi, abituato a copiare le cose belle che ci sono in Europa e a esportare le cose brutte che hanno loro, per esempio il nuovo virus che adesso c'è in Cina, simile alla SARS. Molto allora vengono a prendersi da noi le cose belle, ci portano qui le cose brutte, abituati a mangiare cani di ogni tipo. Prediligono i cani anche. Infatti, adesso concludo, io una volta avevo un cane che mi ha detto: guarda, se proprio non mi vuoi più, piuttosto che lasciarmi in un quartiere cinese, lasciami in autogrill, perché in autogrill me la cavo, nel quartiere cinese sono fritto. Ormai ce li troviamo dappertutto questi cinesi. Lei non è razzista. Vuole che finisca qui o vuole che gliene dica un'altra? Ma guardi, me ne dica un'altra. Arabo. che appartiene a un gruppo umano di colore olivastro. Gli arabi si dividono in due tipi. Quelli che hanno il petrolio, sì, e quelli che il petrolio non ce l'hanno. Così. Quelli che hanno il petrolio se la spassano con le donne in tutto il mondo, sul loro yacht e fuori dall'Arabia, di far mettere il burqa alle donne, non gliene frega niente. Quelli che non hanno il petrolio e invece sono costretti a vedere solo donne col burqa, allora si incazzano e diventano terroristi. Questa è la sostanza. E allora io dico, oppure vengono in Italia a rubare il lavoro agli italiani. Così. Per questo io ho fondato il PISI. PISI anche tu, vota PISI anche tu, super sovranista italiano, ti difende ogni giorno di più, perché bisogna non essere ipocriti come tutti, sì, come tutti i politici, libero, compresi libero, quelli libero, non l'ho interrotta, quando parlava lei, vabbè. E i suoi amici, la sua accolita, ma quale accolita? Quindi lei che è il rappresentante delle accolite. Sì, lei ha un'accolita tutta. Insomma, di questi Garozio, personaggi, la ringrazio. Mi dica. Lei a Sanremo, per noi esempio, mi sa che non andrebbe, eh? Noi ci manteniamo vendendo il nostro dizionario super sovranista. Quanto costa? 10 euro, una 10 cifra euro. Sì, assolutamente congrua. Edito dal PISI. Ci venga a trovare ancora. Naturalmente. Non si faccia vedere a Sanremo, perché lei con queste idee mi sa che non va sul palco di Sanremo. Ma questo lo dice lei, vedremo quando noi avremo il 51% dei consensi per difendere gli italiani. Altro che Salvini, altro che i finti sovranisti. Noi siamo i veri defensor civitatis. A domani. Nessuno, 100.000.